Qualche luce tra le ombre di uno strappo di giornale, una sigaretta spenta che non si può consumare. Vedo te dietro la notte, ma anche il mondo vuol dormire e anche le onde sotto vento non si vogliono svegliare. Cader senza inciampo. Il silenzio non mente a nessuno.